L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, siamo pronti come sempre a rivivere le vicende più importanti, più significative dell'ultima settimana. In realtà tutto poi è tragicamente condizionato da quello che è successo a Viareggio, ma noi cercheremo come al solito di raccontare anche altro e anche di leggero, come per esempio le tante vicende interessanti, avvincenti, che riguardano lo sport italiano e internazionale. Partiamo allora con il nostro viaggio a ritroso nell'ultima settimana, che inizia da sabato 27 giugno e poi si concluderà con la giornata di venerdì, cioè di ieri 3 luglio. Riascolteremo come sempre i servizi andati già in onda nei nostri giornali radio. Sabato. Apriamo con lo sport e con l'ennesimo tributo, ma di fatto non ci stanchiamo mai di farlo, a Valentino Rossi. Ormai è entrato definitivamente nell'Olimpo dei campionissimi, è un po' come Maradona, Michael Jordan, Fausto Coppi, insomma, nel GP d'Olanda sabato scorso, in quella che è la pista più tecnica e più difficile del mondiale, realizza l'ennesima perla della sua carriera, davvero infinita. Sentiamo Patrizio Cantù. Valentino Rossi, come tutti i grandi campioni, è uno scaramantico e l'ossessione per la centesima vittoria lo stava già preoccupando. Ha tirato un gran sollievo quando si è messo in posa per la centesima istantanea di un rullino di vittorie lungo 13 anni, primo scatto a Bordeaux nell'agosto del 1996. Impettito, sudato ma giustamente orgoglioso, ad Assen è entrato ancora una volta nella leggenda, il secondo italiano dopo Giacomo Agostini, che lo vede sempre più vicino ai suoi 122 trionfi. Rossi in Olanda ha vinto dominando per non avere dubbi, andando subito in fuga dopo i sorpassi a Pedrosa e a Stoner. Lorenzo, secondo, continua a imparare, mentre dietro, terzo, è uno Stoner con la Ducati sofferente e ancora con crampi allo stomaco che alla fine della corsa lo portano dritto alla clinica mobile. Lorenzo ora è a meno 5, mentre Stoner è a meno 9. Pedrosa e Dovizioso con le Honda hanno tentato un guizzo iniziale, ma poi sono entrambi caduti nella stessa curva allo stesso modo. Quarto è arrivato così Edwards con la Yamaha davanti a Vermeulen con la Suzuki e a Tosinanda con l'altra Yamaha Trek 3. Capirossi, attardato da Elias, è finito decimo. Nelle classi minori, Aoyama con la Honda ha vinto nella 250, pur facendosi tamponare da Bautista. Terzo Simoncelli, mentre nella 125 lo spagnolo Gadea ha trionfato davanti a Simone Smith. Tra 8 giorni, tutti di nuovo in pista a Laguna Seca in California. Si ricomincia, ma solo per le MotoGP. E nel nostro menù sportivo non può naturalmente mancare il calcio. Ci sono le follie del mercato, soprattutto del Real Madrid, che non si fanno certo attendere, ma intanto domenica si gioca la finale della Confederation Cup, che spesso poi si trasforma in una vetrina preziosa, imperdibile per i giocatori in cerca di una sistemazione. La sfida sul campo è invece insolita, almeno a così alti livelli, perché c'è da una parte il blasonatissimo Brasile e dall'altra gli outsider, cioè gli Stati Uniti. La cronaca è firmata da Stefano Piazza. Nel giro di Johannesburg gli Stati Uniti partono forte. Dempsey al volo punisce Julio Cesar e Donovan buca la Seleção per la seconda volta, infilando una difesa lentissima con un clamoroso contropiede. La ricetta per fermare la corazzata di Dunga sembra semplice: catenaccio e palle in avanti per i piedi buoni dei due marcatori e di Altidor. Il Brasile ci prova, ma difetta in lucidità e concede praterie vastissime ai gringos di coach Bradley. Si va al riposo sul 2-0, la platea sudafricana è pronta per un'altra grande sorpresa. Il secondo tempo si apre con il gol lampo di Luis Fabiano e una nazionale verdeoro più incisiva e padrona del campo. Fino al giallo il quasi gol di Kaká, parato da Howard quando sembrava aver già superato la linea di porta. Howard poi si ripete di nuovo su Luis Fabiano con un'uscita miracolosa. Poi sbocca di nuovo il giustiziere dell'Italia, traversa di Robinho su taglio in mezzo di Kaká e Luis Fabiano, capocannoniere con 5 gol, è pronto a ribattere in rete di testa, 2-2 e americani rimontati. Ma ci vuole Lucio, il capitano, per ristabilire le gerarchie in campo. Il Brasile va in vantaggio e riporta a casa la Confederation Cup. Hanno vinto i più forti, mezzo miracolo non basta agli States per stupire il mondo. E veniamo al calcio mercato, una vera droga per gli appassionati di calcio più morbosi, più feticisti, naturalmente mi inserisco anch'io in questa speciale graduatoria. È sempre il Real Madrid a dettare la linea, in settimana acquista anche il centravanti francese, la promessa del calcio francese Benzema, per 35 milioni di euro dal Lione. Martedì invece avviene la presentazione in pompa magna, in stile davvero Real Madrid, di Kakà, in attesa poi di quella che sarà ancora più galattica, probabilmente, di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che nel frattempo ha avuto dei problemi con un fotografo, lo ha preso a pugni, insomma, ha rischiato grosso, c'è stata una mezza rissa a Lisbona, mentre Zapatero, il premier spagnolo, che peraltro è tifosissimo del Barcellona, ha detto che Kakà è meglio di Ronaldo. Comunque poi sul campo questa questione verrà sicuramente risolta. Torniamo però alla presentazione di Kakà con Giovanni Capuano. Damos la bienvenida a su nueva casa, a este Santiago Bernabéu, Hoy damos la bienvenida a Kaká. Un benvenuto come a un figlio che torna a casa. Così Florentino Perez ha salutato la prima madrilena di Kaká. 40.000 persone sulle tribune del Bernabéu, le immagini e le suggestioni dei grandi del Real. Un fiume di parole e di promesse, tutte in diretta planetaria, come la firma sul contratto che legherà il brasiliano ai Galattici, che chiude una trattativa telenovela che, ha detto lo stesso Kaká, non avrebbe potuto finire diversamente. La mia decisione fu di scegliere se un giorno io tivessi che sai do Milan. Io gostaria di giocare nel Real Madrid. Ho pensato che se avessi dovuto lasciare il Milan l'avrei fatto solo per il Real Madrid, ha spiegato Ricardo in portoghese. Indosserà la maglia numero 8, quella degli inizi della carriera al San Paolo. Tra le promesse anche quella di non pestarsi i piedi con Ronaldo, prossima chiamata sul palcoscenico stellare del Bernabéu. Il Real Madrid sta facendo la campagna acquisti più faraonica, più scintillante, forse anche poco elegante della storia, ma sicuramente i suoi tifosi sono eccitatissimi. A qualcuno però questa strategia del Real Madrid non piace troppo, per esempio a Michel Platini, che da quando è al vertice del calcio europeo sta combattendo una personalissima guerra per la moralizzazione del calcio, una guerra lunga, faticosa, a volte anche impopolare, fatta di qualche vittoria ma anche di certe delusioni. Sentiamo la sua ultima uscita di giovedì con Dario Ricci. Obiettivo: il fair play finanziario. Che sia uno dei grandi gentiluomini del calcio mondiale nessuno lo ha mai messo in dubbio, ma ora Michel Platini ha deciso di moralizzare anche i conti dei club del calcio europeo. A convincerlo a spingere sull'acceleratore la campagna acquisti plurimilionaria del Real Madrid. Trovo anormale e mi dà fastidio che si spendano 90 milioni di euro per un solo giocatore. È la sentenza di Roi Michel sui quasi 200 milioni di euro spesi dalle merengues di Florentino Perez per accaparrarsi Kaká, Cristiano Ronaldo e Benzema. E allora via libera al tetto salariale per i giocatori e al limite di spesa. Spese per ingaggi e acquisti dovranno essere quindi proporzionate ai bilanci dei club. Ratifica definitiva a settembre, norme esecutive entro 2 o 3 anni. E a proposito di fair play, dall'UEFA arriva anche l'ok allo stop delle partite, prima temporaneo, poi eventualmente definitivo in caso di cori razzisti. Domenica. Tra le notizie che scuotono l'ultima domenica di giugno ne arriva una dall'Honduras, un paese che quasi mai è al centro della cronaca se non per qualche vacanza esotico, perché magari è il set dell'Isola dei Famosi, del reality di Simona Ventura. E invece all'improvviso sembra ritornato in Honduras quello che era un po' il clima tipico degli anni Ottanta, da colpo di Stato, da turbulenze. E allora riascoltiamo proprio quello che succede domenica nel servizio di Micaela Nasca. Sono arrivati incappucciati, mi hanno portato in un aereo senza sapere dove saremmo andati. La comunità internazionale adesso deve difendere l'Honduras. Dal Costa Rica parla il presidente Manuel Zelaya, dopo essere stato arrestato e allontanato dal suo paese. Un golpe coordinato, eseguito materialmente dai militari, ordinato dalla Corte Suprema. Intervenuti per difendere la Costituzione, così si legge in un comunicato ufficiale, dopo che il presidente non ha desistito dal portare avanti un referendum che avrebbe potuto aprire la strada alla sua rielezione. Con lui sarebbero stati sequestrati anche gli ambasciatori di Venezuela, Cuba e Nicaragua e arrestati almeno altri 7 ministri. Tempestiva la reazione del presidente venezuelano e fedele alleato Hugo Chavez, che non ha escluso la possibilità di un intervento militare. Intanto i poteri sono stati presi dal presidente del Congresso, Roberto Micheletti, mentre i blindati presidiano la capitale. Zelaya, dal Costa Rica, ha puntato il dito contro Barack Obama. «Ci sei tu dietro a tutto questo?» ha chiesto al presidente degli Stati Uniti, paese che ha appoggiato i governi militari dell'Honduras prima che divenisse una repubblica presidenziale nel 1982. Washington ha però respinto l'accusa, parlando del colpo di Stato come di un atto che deve essere condannato e che viola i principi democratici. Davvero strano questo golpe in Honduras, ancora da risolvere naturalmente. Stranissima anche la reazione americana, che all'inizio è piuttosto prudente con Obama. Poi c'è questo Micheletti italiano, insomma in realtà gli honduregni lo chiamano Micheletti e anzi i suoi detrattori lo chiamano persino Pinochetti, insomma rievocando lo spettro di Pinochet, del dittatore cileno. Comunque ricordiamo, appunto, il nuovo leader è di origine e credo anche persino di passaporto italiano. Siamo ancora in bilico, non sappiamo se Zelaya tornerà o meno, come ha anche minacciato di fare. Micheletti o Micheletti, chiamatelo come volete, ha detto di sì all'ipotesi di elezioni presidenziali e intanto trema l'economia dell'Honduras, specie se i paesi confinanti chiudono le frontiere. Adesso invece dall'Honduras ci spostiamo in Iraq, perché il 30 giugno si chiude in parte un'epoca, quella dell'invasione, occupazione e liberazione dell'Iraq, firmata dagli americani, che ora si potranno concentrare sempre di più in Afghanistan. Sentiamo allora Valentina Furlanetto e poi con Adib Fateh Ali il punto di vista islamico. Goodbye America, dopo 6 anni i Marines se ne vanno. Quella che doveva essere una guerra lampo e che invece si è trasformata in una lunga e dolorosa campagna sta per finire anche per le famiglie americane. Era il 9 aprile 2003 quando un soldato americano issò una bandiera a stelle e strisce sulla statua di Saddam Hussein. 20 giorni dopo George Bush pronunciò un incauto discorso. The United States and our allies have prevailed. La guerra è conclusa, annunciò il presidente. Missione compiuta, recitava uno striscione issato alle sue spalle che gli fu in questi anni più volte rimproverato. In realtà scontri e attentati continuarono, tanto che nel 2007 Bush ordinò anche un aumento delle truppe. La svolta arriva a gennaio 2009 con l'insediamento alla Casa Bianca di Barack Obama. I will give our military a new mission, ending this war. Ora i 135.000 soldati americani se ne andranno, lasciando dietro di loro 100.000 vittime civili irachene. Ma anche per le famiglie americane il conto è doloroso. Oltre 4.300 soldati, per lo più ragazzi, non torneranno mai negli Stati Uniti. La statua abbattuta di Saddam, la sua faccia barbuta e umiliata al momento della cattura. Ancora il dittatore appeso ad una corda, la fine di un incubo durato un terzo di secolo, simboleggiata dalla faccia gioiosa con l'indice imbrattato dell'inchiostro nelle prime elezioni libere del 2005. Quindi gli anni terribili della decapitazione qaediste, poi la grande svolta con l'avvento di Obama che accelera un ritiro già annunciato e il sensibile miglioramento della sicurezza in tutto il paese. Sono le immagini flash che raccontano 6 anni che hanno riscritto la storia di un popolo già sfiancato da troppe guerre e da un lunghissimo embargo economico che lo aveva messo in ginocchio. Ma oggi, nonostante tutte le insidie, è il giorno dell'orgoglio, come ci racconta un iracheno che è grato ai soldati USA, ma, parole sue, la loro presenza oramai era diventata la nostra umiliazione. Da oggi gli iracheni sono chiamati a dimostrare di meritarsi la sovranità conquistata. Naturalmente la situazione rimane delicatissima, molto incerta in Iraq, continuano purtroppo gli attentati, mentre da parte americana a gestire le cose sarà direttamente Joe Biden, il vicepresidente, che non credo a caso giovedì è arrivato a sorpresa proprio a Baghdad per una visita lampo in Iraq. E poi c'è tutta la complessa e carissima, nel senso di costosissima, questione del petrolio da sistemare, come ci spiega Roberto Bongiorni nel GR delle 9 di mercoledì. Un avvio tutto sommato deludente. Così diversi analisti hanno commentato la grande gara d'appalto svoltasi ieri a Baghdad per aggiudicare i contratti su 6 grandi giacimenti di petrolio e 2 di gas. 32 le compagnie energetiche in gara, 43 miliardi di barili di riserve in palio. Qualcosa tuttavia è andato storto. L'unico contratto assegnato è stato vinto dal consorzio formato dalla britannica British Petroleum insieme alla cinese CNPC. Per gli altri le cose non sono ancora chiare. Le offerte sono state fatte, ma i termini contrattuali proposti dal governo iracheno non hanno rispecchiato le aspettative delle major. Così è andata per l'Eni, che ha presentato la migliore proposta per il campo di Zubair, ma che poi ha visto il governo chiedere di tagliare del 50% il costo di estrazione. In alcuni casi il gap è sembrato incolmabile, come la proposta fatta dall'americana ConocoPhillips per il giacimento di Bayar Hassan. $27 al barile per il petrolio che starà, il governo ha risposto di concedergliene solo 4. Chi è stato troppo vorace? A prima vista sembra il governo iracheno. Il ministro del petrolio, Shahrestani, era d'altronde assediato da un gruppo di parlamentari che non voleva mettere all'asta i giacimenti, considerate risorsa nazionale. Giochi dunque ancora aperti, apertissimi per il controllo del petrolio iracheno. Il premier iracheno Maliki ha subito detto che non si è trattato di un fallimento in questa prima asta, però anche ha fatto capire che la seconda tranche, il secondo round dell'assegnazione del petrolio verrà anticipata rispetto alla tabella di marcia che fissava appunto il secondo round alla fine di quest'anno. Ora però l'attenzione degli americani è focalizzata, l'abbiamo anche ricordato poco fa, sull'Afghanistan. Sentiamo su questo Cristina Balotelli. Il Pakistan rinforza la sua frontiera con l'Afghanistan per bloccare le vie di fuga ai talebani, contro i quali è scattata la maggiore offensiva militare condotta dalle truppe americane dal tempo della guerra in Vietnam. 4.000 soldati americani e 650 militari afghani. Obiettivo: liberare Helmand, la provincia meridionale dell'Afghanistan, ostaggio dei talebani. È in corso una riorganizzazione dello schieramento delle truppe lungo la frontiera, ha detto il generale pakistano Attar Abbas. Lo scopo dichiarato è di impedire qualsiasi sconfinamento. Per il comando americano bisogna agire bene e in fretta, ripristinare la legalità in un'area che produce oltre la metà dell'oppio dell'Afghanistan è essenziale per il buon esito delle elezioni presidenziali del 20 agosto. Resisteremo, non avranno una vittoria definitiva, ha annunciato un portavoce dei talebani. Lunedì. Sulla politica italiana, sui suoi livori, sui suoi nervosismi, sui suoi colpi bassi, plana d'improvviso Napolitano, perché il Presidente della Repubblica lunedì lancia un appello chiarissimo che non lascia dubbi, insomma, sulla sua interpretazione, pensando anche al G8 imminente della prossima settimana all'Aquila. Da Roma il servizio di Vincenzo Miglietta. Si rivolge a forze politiche e a mezzi di informazione il capo dello Stato al centro delle sue preoccupazioni il prossimo G8 dell'Aquila. Da qui un vero e proprio appello da parte del Presidente della Repubblica. Sarebbe giusto, dice Napolitano, che da qui al G8, data la delicatezza di questo grosso appuntamento internazionale, vi fosse una tregua nelle polemiche. Penso che sarebbe abbastanza giusto di qui al G8, data la delicatezza di questo grosso appuntamento internazionale, anche una tregua nelle polemiche. Ne va insomma dell'immagine dell'intero paese, spiegano fonti del Quirinale. Tutto il mondo avrà gli occhi puntati sull'Aquila, sul nostro sistema politico, sui nostri mezzi di informazione. Per questo vi è la necessità di remare tutti dalla stessa parte. Per un G8 di successo anche il presidente della Camera Fini, che auspica un vertice che contribuisca a gettare le basi per regole condivise che consentano la ripresa economica. Da Fini poi una riflessione sul governo italiano: pensare ad una crisi nel prossimo futuro significa confondere la speranza di qualcuno con la realtà. Dal Presidente della Camera infine anche l'auspicio che la legislatura metta mano alle riforme. È probabile che nel suo appello ad abbassare i toni il Presidente della Repubblica stesse pensando anche a quello che sta accadendo a Bari, alle inchieste che da un lato coinvolgono Berlusconi e le sue frequentazioni a Palazzo Grazioli e a Villa Certosa, ma dall'altro anche riguardano le indagini sulla sanità pugliese. Un'indagine così dirompente che il governatore Vendola martedì prende una decisione a suo modo clamorosa. Sentiamo i dettagli da Bari con Giovanni Longo. Fatti politici nuovi, ma anche la necessità di una questione morale che deriva dall'inchiesta in corso. La miscela esplosiva tra questi due elementi ha portato il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, a chiedere ed ottenere da tutti gli assessori di rimettere il mandato nelle sue mani. L'accordo tra l'UDC e il PD alle ultime amministrative in molte province e comuni della Puglia, il risultato europeo ottenuto dall'IDV, fa dire a Vendola di essere molto interessato a discutere con Casini e Di Pietro. Nel pomeriggio però la giunta regionale aveva deciso di sospendere dall'incarico di direttore generale dell'ASL di Bari Lea Cosentino, coinvolta in due inchieste sulla sanità pugliese. In una delle due è indagato anche l'imprenditore Giampaolo Tarantini. In Puglia, ha aggiunto Vendola, nonostante gli sforzi giganteschi che sono stati compiuti dalla giunta regionale di centro-sinistra, il sistema sanitario si conferma permeabile agli interessi delle lobby, delle corporazioni e anche a spinte corruttive. E purtroppo c'è una trasversabilità a questi interessi che non intendo nascondere. I risultati elettorali e il ciclone Tarantini dunque hanno azzerato la giunta Vendola. Non c'è però soltanto la Puglia ad animare barra agitare la scena del centro-sinistra italiano. A livello nazionale, ad esempio, il Partito Democratico è già proiettato nell'atmosfera del congresso che in realtà si svolgerà ancora lontano nel tempo, insomma, in autunno. Sentiamo la cronaca di martedì firmata da Elisabetta Fiorito. La corsa nel PD si fa sempre più un testa a testa. Il sindaco di Torino Sergio Chiamparino rinuncia alla candidatura per la segreteria. In una nota spiega che sono stati sufficienti 2 giorni di ritorno all'attività amministrativa per rendersi conto che una campagna elettorale sarebbe incompatibile con l'impegno a Torino. 2 quindi concorrenti alle primarie, Dario Franceschini e Pierluigi Bersani, ma un terzo candidato potrebbe spuntare nella competizione, il senatore Ignazio Marino, autore della battaglia sul testamento biologico, una scelta che potrebbe impedire ad uno dei concorrenti maggiori di raggiungere la maggioranza assoluta alle primarie e di dover ricorrere al successivo ballottaggio. Nella maggioranza invece possiamo parlare addirittura di una settimana di relativa tranquillità. Per la prima volta da mesi non si parla o si parla poco della vita privata di Berlusconi. Il G8 insomma è alle porte e forse l'appello di Napolitano sta dando qualche effetto per Berlusconi e i suoi, anche se bisogna segnalare che non mancano durissime polemiche però più di carattere politico, ma intanto insomma sulla tenuta del governo si era già pronunciato domenica Tremonti. I dettagli nel servizio di Vincenzo Miglietta. Boccia l'ipotesi di un governo tecnico, definisce l'attuale esecutivo più forte che mai, invita a dare il giusto valore alle previsioni economiche, respinge le inchieste basate sul gossip. Il ministro dell'economia Tremonti interviene sui principali temi di attualità. Intervistato dalla Annunziata su Rai 3, Tremonti spiega: il governo Berlusconi è forte, anzi fortissimo, e arriverà fino alla fine della legislatura. Un eventuale cambio della guardia, aggiunge Tremonti, con un premier di cartapesta durerebbe quanto uno yogurt. Ho sentito dire governi tecnici, ma lei può anche trovare un tecnico, ma lo manda in Parlamento, che tempo di vita gli assicura? Io credo non superiore a quello di uno yomo. I governi sono forti se hanno il sostegno del Parlamento, in quello italiano c'è pieno appoggio all'esecutivo, dice ancora il ministro dell'economia. Il capitolo pensioni poi: ci stiamo lavorando, annuncia Tremonti, che tuttavia spiega: quello italiano è il più sicuro o tra i più sicuri in Europa. E comunque, aggiunge il ministro, non è che questi meccanismi li cambi come cambi la polizza di assicurazione dell'auto. Sul tema interviene anche il ministro per la funzione pubblica Brunetta, che spiega: è una riflessione che va fatta e molto probabilmente una volta scavallata la crisi, e cioè nel 2010, occorrerà seriamente mettere mano al welfare. Le polemiche attorno al governo Berlusconi non mancano, l'abbiamo ricordato, c'è su tutte quella sul pacchetto sicurezza, e tra poco dedicheremo uno spazio apposito nell'ottavo giorno. Ma mercoledì irrompe in Parlamento un'altra storia con annesso poi scontro politico, quella di una cena a metà maggio tra Berlusconi, il ministro della giustizia Alfano, e due giudici della Consulta, che dovranno in autunno decidere proprio sul lodo Alfano, che riguarda direttamente anche Berlusconi. Ecco uno scambio di battute su questo in Parlamento tra il ministro Vito e Di Pietro. L'incontro dunque ha avuto luogo, onorevole Di Pietro, in ogni caso rispetto alle congetture e alle ipotesi disparate citate, in un'epoca antecedente al 26 giugno scorso, giorno nel quale il Presidente della Corte Costituzionale ha fissato per il prossimo 6 ottobre la data di inizio della discussione sul lodo Alfano. L'incontro non ha avuto in alcun modo ad oggetto temi che riguardassero l'agenda della Corte Costituzionale, né ipotesi di riforma del titolo quarto della Costituzione. E voi avete infancato la sacralità della Corte, ed oggi abbiamo, noi che abbiamo a cuore la sua imparzialità, la sua indipendenza, la vediamo totalmente minata. Ora, qualsiasi decisione sarà presa il 6 ottobre, non sapremo mai se quella decisione sia frutto di una totale valutazione di indipendenza o sia frutto invece di una cena carbonara e piduista realizzata quella sera. Chiudiamo per il momento con la politica e torniamo alle vicissitudini, alle grandi manovre all'interno del Partito Democratico. Mercoledì è il giorno di Bersani, ma non solo. Ci racconta tutto Elisabetta Fiorito. Pronuncia il suo discorso in un teatro gremito, l'Ambra Iovinale di Roma, Pierluigi Bersani, mentre nel PD scoppia il caso Deborah Serracchiani. Il candidato alla segreteria inizia sulle note di Vasco Rossi. Molti sono rimasti fuori e si accontentano di seguirlo sul mega screen. Bersani premette: io ho in mente un partito nel quale c'è rispetto. Rispetto per la generazione precedente, un partito nel quale la generazione che viene prima considera suo compito aprire subito la strada alla nuova generazione, sostenendola ed accompagnandola. A Deborah Serracchiani, che l'accusa di essere l'apparato del partito, risponde tono su tono: credo però di poter dire che mi sono sempre preso la briga, dovero, di cambiare qualcosa. Non ho mai lasciato le cose come le ho trovate. Ma nel frattempo nel partito è fuoco di fila contro la Serracchiani, che sostiene l'attuale segretario reggente, l'altro candidato Dario Franceschini, perché è simpatico. Immediata la replica di molti esponenti PD, anche Totò lo era. Ma la neoeletta al Parlamento europeo replica su Facebook: sto con Dario perché vuole creare una nuova classe dirigente. Chiudiamo qui la lunghissima prima parte dell'ottavo giorno. Rapidamente però vorrei ricordare quello che per ragioni di tempo abbiamo dovuto tralasciare. Per esempio lo sport: c'è stato sabato anche il record del mondo nel nuoto, nei 400 stile libero, della nostra grandissima Federica Pellegrini. Poi dobbiamo ricordare almeno un evento che in questo weekend si conclude, cioè Wimbledon per il tennis, e invece uno che comincia, il Tour de France nel ciclismo. Abbiamo sorvolato su Moggi, che per qualcuno era pronto a ritornare nel calcio che conta con un ingaggio nel Bologna, ammesso poi che dietro le quinte Moggi non continui a fare il suo lavoro, piaccia o non piaccia. Invece per gli esteri oggi niente finestre sull'Iran, ma la situazione rimane sempre molto critica, molto delicata. E poi sull'Afghanistan, che invece abbiamo ricordato perché c'è una nuova controffensiva americana, ieri due soldati italiani sono rimasti feriti in un attacco suicida. L'ottavo giorno, martedì. E veniamo a quello che è sicuramente, indubitabilmente, il fatto della settimana. Tragico, terribile, temo se ne parlerà a lungo e a lungo resterà impresso nella memoria di tutti noi. Poco prima della mezzanotte, tra lunedì e martedì, un treno merci deraglia mentre sta attraversando la stazione di Viareggio. Alcuni vagoni carichi di carburante si ribaltano e scoppia un terribile incendio e tantissime saranno le vittime e i feriti. La ricostruzione è firmata da Micaela Nasca. No! No, guarda lì! No, deraglia il treno! Oddio! La reazione di alcuni ragazzi testimoni dell'esplosione finisce subito su YouTube. Mancano pochi minuti a mezzanotte. Il treno merci 50-325 Trecate-Gricignano, con il suo convoglio di 14 vagoni carichi di gas, arriva in prossimità della stazione di Viareggio. La ferrovia corre in mezzo ai palazzi, costeggia via Ponchielli. Cede il carrello del primo carro cisterna, che trascina fuori dai binari altri 4 vagoni. Solo da uno fuoriesce il gas. Pochi secondi e salta in aria. Il sindaco di Viareggio, Luca Lunardini, è tra i primi a raccontare a Radio 24 ciò che ha visto. Ero in quel momento al mio computer con la finestra aperta e guardavo proprio nella direzione dell'esplosione, estremamente violenta, una specie di piccolo fungo di fuoco. Le fiammate investono i palazzi e la strada. Una palazzina si sbriciola, un'altra prende fuoco. Alcune persone restano coinvolte nell'esplosione e c'è chi si ferma a prestare aiuto. Sono andato a dare una mano, a tirare un po' di gente fuori da sotto le macerie, roba da non riuscire a dormire. Uno era con la gamba sotto le macerie, siamo riusciti a tirarlo fuori con col separatore che ha alzato le macerie, un macchinario. Poi una signora che era tutta bruciata. Passa la notte, si inizia a fare il calcolo delle vittime, dei feriti e dei dispersi. Nel tentativo di salvare i figli, la madre ha portato il primo bimbo in macchina. C'è stata una seconda esplosione e la macchina con il bimbo a bordo è stata investita dall'esplosione e praticamente il bimbo è rimasto, scusa, col zotto. Quindi. C'è tanti morti, tanta gente sempre sotto le macerie, c'è pieno proprio di soccorsi, però purtroppo c'è anche tanta gente che è bruciati, mandati al Maier, mandati a Firenze, mandati a Genova, l'ospedale è pieno. Una delle operazioni più dolorose anche per noi giornalisti di fronte a tragedie come quella di Viareggio è sicuramente la conta dei morti, conta che prosegue inesorabilmente giorno dopo giorno e che ieri ha superato la soglia tragica, fatidica dei 20. Nel frattempo si devono assolutamente accertare le responsabilità, trovare i colpevoli di quello che è successo a Viareggio. Sentiamo com'era la situazione martedì, quindi a poche ore dal disastro, con Alessio Maurizi. Lungo quelle linee dove il giorno viaggiano i passeggeri, di notte si muovono i convogli che trasportano ogni tipo di merci, anche quelle pericolose. Il treno che ha causato l'incidente a Viareggio aveva un locomotore italiano e 14 vagoni stranieri pieni di GPL. Poco prima della stazione le scintille, il treno rallenta, i primi 4 vagoni deragliano e scoppia l'incendio. La causa, la rottura di un asse, come spiega l'amministratore delegato di Trenitalia, Mauro Moretti. L'asse di un primo carro si è spezzato e quindi è una specie di sedimento strutturale che rappresenta uno degli elementi importanti delle revisioni e sono fatti naturalmente dai proprietari. Nei longheroni che vedete ci sono anche le scadenze di cosiddetta revisione e dalle scadenze sappiamo che erano in perfetta regola. A rompersi è uno dei vagoni cisterna di una società americana con sede a Vienna immatricolata in Germania. Delle bombe a orologeria, denuncia Stefano Boni della CISL Trasporti Toscana. Io mi sento di chiamarle bombe a orologeria perché se il trasporto materiale è pericoloso, come è successo anche l'altro giorno a Prato, questi trasportavano gas. Noi qualche controllo lo dobbiamo fare, perché sennò altrimenti si rischia veramente di prendere qualsiasi cosa e poi succede quel che succede. Intanto il ministro delle Infrastrutture Matteoli annuncia una commissione d'inchiesta per verificare se l'incidente ha delle responsabilità. Quando entrano nel territorio nazionale ci deve essere la sicurezza della loro efficienza e cercheremo di capire bene se c'è bisogno di rafforzare quelli che sono i controlli che fino ad oggi ci sono stati. Quello di Viareggio è anche diventato, altro triste primato, l'incidente ferroviario più pesante nella storia italiana. Una ricostruzione invece dei disastri che furono su rotaia nel nostro paese l'ha fatta in questi giorni Fabio Pisano. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, ma è già chiaro per tutti che a Viareggio si è consumato uno dei più gravi disastri ferroviari del dopoguerra. Il triste primato finora aspettava lo scontro di Crevalcore il 7 gennaio del 2007. 17 morti nello schianto tra un interregionale dell'FS e un merci carico di putrelle d'acciaio. Andando a ritroso ed escludendo gli attentati terroristici degli anni 70 e 80, si ricorda poi l'incidente della Freccia della Laguna, finita fuori dai binari nei pressi di Rometta Marea, in provincia di Messina, il 20 luglio del 2002. 8 le vittime. Stesso bilancio per il deragliamento del pendolino Milano-Roma il 12 gennaio del 97 a 300 metri dalla stazione di Piacenza. Niente a che vedere, per fortuna, con disastri più datati, come quello di Voghera, maggio 1962, 63 viaggiatori diretti a Genova uccisi sul loro treno investito in piena velocità da un merci proveniente da Milano. Oppure quello di Balvano, marzo 1944, quasi 600 vittime asfissiate in galleria dal monossido di carbonio. Un incidente rimasto, come tanti altri, senza colpevoli. Oltre alle vittime bisogna anche tener conto degli sfollati, sono tantissimi nella zona coinvolta dall'incidente ferroviario di Viareggio. Si occupa di questo in questo servizio di mercoledì Maria Chiara Grandis. Seconda giornata di lutto cittadino a Viareggio dopo l'esplosione del treno carico di GPL lunedì notte. Manifestazioni sospese, bandiere a mezz'asta fuori dagli edifici pubblici e negli stabilimenti balneari. E mentre all'obitorio dell'ospedale si cerca di dare un nome ai corpi non ancora identificati, sono mille gli sfollati. Sono gli abitanti della cosiddetta zona rossa, quell'area intorno alla stazione dove prosegue lo svuotamento dei vagoni cisterna. 900 di loro, se le operazioni termineranno nei tempi previsti, rientreranno a casa fra pochi giorni. 100 persone, invece, una casa non ce l'hanno più. Gianfranco, vivo per miracolo, non ha perso solo quella. Abbiamo anche un negozio che è adiacente a un'abitazione, la quale abitazione è crollata, ma ha trascinato giù anche il negozio. Alcuni degli sfollati hanno trovato rifugio nelle tende allestite davanti al comune, oppure al Palasport. Molti hanno chiesto aiuto a parenti e amici, altri ancora sono ospiti degli alberghi lungo la costa, come i turisti stranieri, ieri rimasti gli unici a godersi il mare e le spiagge di Viareggio. È difficile riassumere, comprimere in pochi minuti tutto quello che è accaduto, tutto quello che è stato anche raccontato nelle costanti dirette, nei costanti servizi da Radio 24, veramente quando capitano fatti del genere non è facile mettere in fila tutti gli avvenimenti anche collaterali. Comunque Massimo Di Scienza raccoglie i fatti principali della giornata di giovedì. Il ritorno alla normalità prosegue lento, la zona intorno alla ferrovia è ormai in sicurezza e molti degli abitanti delle palazzine evacuate sono rientrati negli appartamenti. Le case devastate dal fuoco invece restano sbarrate, lì vivevano molte delle vittime dell'esplosione, anche una donna di origini marocchine morta ieri pomeriggio all'ospedale della Versilia. L'indagine contro ignoti prosegue tra perizie e sequestri. Sulle cause dell'incidente gli esperti sono d'accordo, si è trattato di cedimento strutturale. Al Senato l'amministratore delegato dell'FS Mauro Moretti nega ogni responsabilità delle Ferrovie dello Stato, poi ai microfoni di Radio 24 parla di vagoni vecchi, fabbricati nel 74 in Germania Est, e di carenze di controlli. In termini astratti non comporta niente. Se venissero verificati con sistemi che ne garantiscano la integrità nel tempo. Ma vedendo i risultati di quello che c'è stato, avere delle componentistiche vecchie con il risultato che abbiamo visto vuol dire che non c'è stato neanche il controllo sistematico dell'integrità di questa roba. E mentre le FS hanno sospeso ogni attività della ditta proprietaria della cisterna esplosa, il presidente del Consiglio Berlusconi ha annunciato che potrebbero cambiare le norme sulla circolazione di materiali pericolosi su rotaia. E veniamo alla giornata di ieri, l'ultima in ordine di tempo della nostra lunga cronaca dedicata al disastro ferroviario di Viareggio. Mentre tra l'altro per una banale ma inevitabile associazione di idee, penso ad un'altra tragedia ancora più grave, quella dell'Aquila, dove nuove scosse e ancora nuova paura aleggiano purtroppo nell'aria e nella terra abruzzese, con peraltro il G8 ormai imminente. Ma restiamo su Viareggio, il punto della situazione nel GR delle 19 di ieri. Davanti a quelle cisterne inclinate, i primi ad attraversare di nuovo la stazione si sentono dei sopravvissuti. A Viareggio riprendono in parte a circolare i treni, le case non danneggiate tornano ad essere abitate, ma i dannati di quell'inferno di fiamme e gas continuano a morire. Non ce l'ha fatta un giovane marocchino e non ce l'ha fatta nemmeno Stefania, madre di due bimbi rimasti ora al capezzale del padre, anche lui in gravi condizioni. Accerteremo modalità e cause dell'incidente, promette il premier Silvio Berlusconi, annunciando lo stato d'emergenza per Viareggio fino a fine 2009, senza però decidere ancora stanziamenti economici. Da parte sua la GATS Rail, la società proprietaria del carro deragliato, dopo il blocco da parte delle ferrovie, annuncia verifiche su tutti gli assi dei vagoni con GPL e in via precauzionale la sostituzione. Il punto debole sono i controlli, torna a dire il ministro Matteoli, mentre i macchinisti di Orsa RDB a Bologna denunciano con un esposto gli allarmi sottovalutati. Altri da un'assemblea a Pisa chiedono a gran voce un'analisi delle ragioni del degrado del servizio. Mercoledì. Dedichiamo quest'ultimo segmento del terzo blocco dell'ottavo giorno non già una notizia ma a un personaggio della settimana, perlomeno qui di Radio 24. Parlo infatti del giornalista, scrittore Roberto Saviano, ormai diventato un simbolo, forse il simbolo più noto perlomeno agli italiani e anche all'estero, nella lotta alla camorra. Saviano mercoledì è ospite di Alessandro Milan in 24 Mattino. Ecco un estratto dell'intervista. Io so bene che questa mia condizione è anche una condizione di privilegio, cioè ricordo che l'Italia è il secondo paese dopo la Colombia per persone sotto protezione, ricordo che la mia condizione è una condizione diffusa e condivisa da moltissime persone, tra cui anche molti miei cari amici sono in questa situazione, quindi non dimentico che il fatto questa mattina di poter parlare, di poter scrivere, mi mette in una condizione di privilegio, ma nonostante questo dopo 3 anni davvero a volte non ne posso più e spero sempre di trovare una strada, una qualche porta che non so bene dove andare a cercare, che mi porti ad una vita più o meno normale, costruire una famiglia, avere la possibilità di passeggiare, che è la mia ossessione prima, nel senso che sarà la prima cosa che farò qualora dovessi riacquistare la libertà. L'ottavo giorno. Giovedì. E siamo arrivati a parlare del pacchetto sicurezza, tema caldo, rovente, arroventato, che scatena anche poi le polemiche tra destra e sinistra, tra maggioranza e opposizione. Argomento peraltro topico nell'agenda politica di questo periodo, di questo governo. Giovedì il pacchetto sicurezza diventa legge. Sentiamo allora il racconto della giornata con Paola Cavadi e poi i contenuti del provvedimento nella scheda curata da Anna Migliorati. A un anno dalla sua presentazione in Parlamento il pacchetto sicurezza diventa legge. Con 157 sì, 124 no e 3 astenuti, il Senato ha dato ieri il via libera definitivo alla legge. Sono stati in tutto 6, 3 a Montecitorio e 3 a Palazzo Madama, i voti di fiducia chiesti dal governo per blindare il testo. Un provvedimento che l'esecutivo ha fortemente voluto, ha detto dall'Aquila il premier Berlusconi. Esulta in aula il ministro dell'interno Maroni, l'unico rammarico che l'opposizione abbia votato contro. Chi vota contro l'inasprimento del 41 bis non fa un buon servizio alla lotta alla mafia. Chi vota contro i provvedimenti che puniscono chi sfrutta i clandestini non fa un buon servizio alla lotta all'immigrazione clandestina. Dopo il voto di ieri, l'Italia dei Valori ha esposto in aula cartelli con su scritto governo clandestino del diritto. La capogruppo dei senatori del PD Finocchiaro ha tuonato contro l'esecutivo che ha detto ricorre alla fiducia perché non si fida dei suoi. Consideriamo che questo provvedimento abbia la stessa forza di un bel pugno sbattuto sul tavolo, ma quanto alla sua efficacia nel contrasto all'immigrazione clandestina, è appunto è un pugno sbattuto sul tavolo. Un provvedimento che porterà molto dolore, così Monsignor Marchetto della CEI, che parla di una legge che criminalizza i migranti. A far discutere più di tutto è stato il reato di clandestinità, che ora è legge. Chi entra o viene scoperto da clandestino sul territorio italiano compirà un reato già di per sé, senza fare altro. Un tema che ha fatto e farà dibattere i giuristi, visto che punisce uno status e non un atto. Le implicazioni poi sono molteplici. L'obbligo per i dipendenti pubblici di denunciare i clandestini. Non per medici e dirigenti scolastici, ma la norma è tutta da vedere nell'attuazione. L'impossibilità per le madri clandestine di riconoscere i figli che diventerebbero adottabili, ma con la possibilità di un permesso temporaneo che renderebbe regolari le donne straniere incinta. Altra novità, le procedure di espulsione per gli stranieri potranno durare fino a 6 mesi invece di 2. Questo dovrebbe consentire più rimpatri. Altro tema contestato, le ronde. La legge riconosce associazioni di cittadini per la sicurezza, ma solo disarmate e senza divise. Diventa poi legale in Italia lo spray al peperoncino per autodifesa. Ma le norme sulla sicurezza riguardano anche altro. Per i reati di mafia il carcere duro verrà rinnovato ogni 4 e non 2 anni. Saranno escluse dagli appalti pubblici le imprese che non abbiano denunciato il racket. E poi arriva la revisione obbligatoria della patente, non solo una multa, per chiunque venga fermato al volante sotto effetto di droghe o dopo aver bevuto troppo. Polemiche e divisioni sul pacchetto sicurezza si sprecano, proseguono per tutta la giornata di ieri e poi che chissà per quanto ancora proseguiranno. In particolare la CEI si scaglia duramente contro l'iniziativa del governo, Maroni risponde per le rime. Sicuramente uno degli aspetti più eclatanti e anche controversi delle scelte fatte da questo governo è rappresentato dalle ronde, che è stato anche accennato dal servizio che abbiamo appena riascoltato di Anna Migliorati. Maria Luisa Pezzali nel GR delle 7 di ieri ha voluto approfondire la questione. Le associazioni di volontari per la sicurezza, così vengono definite le ronde, saranno disarmate, iscritte in elenchi e formate prioritariamente da ex agenti. Potranno pattugliare il territorio ma senza divise o simboli di partiti politici, segnaleranno le situazioni di pericolo alle forze dell'ordine ma non potranno intervenire. In tutta Italia, specie al nord, sono decine quelle attive sul territorio, dalle discusse ronde nere della Guardia Nazionale sotto indagine per apologia del fascismo alle guardie padane leghiste, dalle sentinelle antidegrado di Firenze fino ai Blue Berets e ai City Angels di Milano. Quest'ultimi, nati 15 anni fa e presenti ormai in molte città, prendono però le distanze dalle ronde. Il presidente Alfredo Tavernese. La ronda va alla ricerca del nemico, noi andiamo alla ricerca di persone da aiutare. Noi siamo certamente grati al ministro Maroni che alcuni mesi fa ci ha indicato come esempio, ma naturalmente non bisogna parlare di ronde. Se i comuni ci dovessero richiedere, come già ci è stato richiesto in alcuni comuni, la nostra presenza disponibile a fare questo tipo di attività, ma non collaboreremo mai con nessun tipo di associazione che abbia colore politico o che abbia intenti diversi di quelli umanitari e di solidarietà verso tutti i popoli. Venerdì. E per concludere ci concediamo una sventagliata in chiave economica. C'è piuttosto l'imbarazzo della scelta su quale notizia segnalare, su dove concentrarci. Insomma, negli Stati Uniti c'è un tasso di disoccupazione gravissimo, pesantissimo, è arrivato al 9,5%, il massimo degli ultimi 26 anni. Anche in Europa la disoccupazione non è mai stata così alta, a maggio è arrivata altrettanto al 9,5% con addirittura 3,4 milioni di disoccupati in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quindi sono cifre davvero raggelanti. La Banca Centrale Europea ha parlato, in particolare Trichet, che ha detto che la ripresa è attesa per la metà del 2010, quindi i tempi cupi sono ancora lunghi. Però la notizia delle notizie di questa settimana è su tutte la condanna a 150 anni lunedì inflitta a Bernie Madoff, il più grande truffatore della storia. Sentiamo il commento da New York di Mario Platero. Siamo arrivati alla fine quantomeno giuridica di questa saga, perché ci sono ancora molti punti oscuri, ma devo dire che il massimo della pena è dunque 150 anni cumulativi. Naturalmente vuol dire che Madoff non potrà ottenere dei benefici di buona condotta, dei condoni o anche se li ottenesse prima di consumare i 150 anni, avendo 71 anni ovviamente finirà la sua vita in prigione. È una condanna esemplare, una condanna per dire che questo tipo di crimini sono assolutamente inaccettabili, è un messaggio che viene dato direi a tutto il mondo finanziario, anche quello che così che con in white shoes, come si dice qui, che è quindi quello più di sangue blu, che però forse qualche cosa nella coscienza di sporco ce l'ha anche lui. Ed ora ritorniamo invece sulle parole pronunciate sabato da Draghi, dal governatore della Banca d'Italia, sulla crisi e soprattutto sulle ricette per uscire dalla crisi stessa. Da Basilea il servizio è andato in onda domenica mattina dell'inviata alle Sole 24 Ore Rossella Bocciarelli. Molti progressi sono stati fatti nel superamento della crisi finanziaria mondiale, ma non siamo ancora fuori pericolo. È quanto ha spiegato ieri a Basilea il presidente del Financial Stability Board, Mario Draghi, al termine della riunione inaugurale dell'organismo da lui presieduto e del quale fanno parte i dirigenti dei ministeri dell'economia, delle banche centrali e delle autorità analoghe alla Consob di 24 tra paesi e giurisdizioni del mondo. Se paragonate la situazione attuale a quella creatasi subito dopo il crack Lehman, ha dichiarato Draghi, indubbiamente molto è stato fatto nella politica fiscale, in quella monetaria e macroprudenziale, nonché sul fronte della ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie. La situazione dei mercati è quindi tornata a come era prima del collasso Lehman, ma non è ancora ai livelli pre-crisi. Miglioramenti, dunque, sì, ha concluso il numero uno di Banca Italia, ma non ci troviamo ancora out of the wood, fuori dal bosco, come dicono gli inglesi. Come dire, l'instabilità finanziaria non è ancora alle spalle. Chiudiamo con l'ottava notizia della settimana, che questa volta vuole essere un omaggio ad un grande nome della musica e della coreografia scomparsa martedì, Irene Privitera. Aveva iniziato da adolescente con piccoli ruoli da attrice. Divenuta poi danzatrice e infine coreografa fra le più apprezzate al mondo, Pina Bausch era nata a Solingen nel 1940. Sempre in Germania aveva fondato nel 1973 il teatro danza della città di Wuppertal, con il quale avrebbe rivoluzionato il balletto contemporaneo. Soltanto 5 giorni fa le era stato diagnosticato un tumore. Il mondo della danza piange la sua scomparsa, il ricordo di Carla Fracci. L'ho incontrata, mi aveva anche invitato a ballare proprio in Nickel. Ci siamo incontrati tante volte, ma non ho avuto la possibilità per poter essere con lei per un periodo. La notizia è stata come un folgore violenta, un dolore per la sparizione di personaggi necessari alla vita, all'umanità. La Bausch era una di questi. Il dolore per la sua perdita è incolmabile, non esiste nessuno che possa sostituirla. I suoi danzatori hanno portato sul palcoscenico la critica al consumismo della società contemporanea, esprimendosi con il corpo ma anche con oggetti, sedie e suppellettili, come nel celebre Caffè Müller, spettacolo ideato dalla Bausch nel 1978 e divenuto simbolo della sua arte. Sempre per restare nell'ambito dello spettacolo, ricordo che anche Karl Malden, grande attore, Tram chiamato Desiderio, Fronte del Porto e poi il telefilm Le strade di San Francisco con un giovane scoppiettante Michael Douglas, è scomparso a 97 anni. Io mi fermo qui, ricordo la mail, ottavogiorno@radio24.it. Ringrazio in regia Paolo Corleone e do appuntamento a sabato prossimo alle 10 oppure in replica alle 23.